Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Mirafiori, l'azienda spiega l'accordo ai lavoratori, la FIOM protesta. Dati positivi per la produzione industriale italiana e per il PIL tedesco. Tunisia, la protesta arriva nella capitale, rimosso il ministro dell'interno. MotoGP svelata la nuova Ducati, si apre l'era di Valentino Rossi. Buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura dunque ancora le vicende che riguardano Fiat, nel giorno nel quale arriva la conferma ufficiale delle date per il referendum su Mirafiori. Domani e dopodomani dunque la stessa azienda ha organizzato delle assemblee con i lavoratori delle carrozzerie. È stato il primo turno della mattina ad essere interrotto dalla Fiat. Un'ora di pausa per far spiegare dai capi squadra ai lavoratori la versione dell'azienda sui contenuti dell'accordo. Assemblee queste però che non sono piaciute alle tute blu della CGIL stanno condizionando il referendum e di fatto l'accusa lanciata dalla FIOM. I dirigenti della Fiat, spiega il responsabile auto Giorgio Airaudo, stanno incontrando gruppi di lavoratori per spiegare l'accordo, ma di fatto per chiedere di votare sì. Nel silenzio dei sindacati firmatari, aggiunge l'esponente della FIOM, l'azienda ha assunto non solo la guida diretta del fronte del sì, ma addirittura l'iniziativa di sostituirsi ai sindacati stessi. Pronta la replica della Fiat che commenta: è nelle nostre prerogative illustrare un accordo che l'azienda ha firmato. Ai metalmeccanici della CGIL tuttavia la spiegazione non basta e denunciano. Ai lavoratori viene chiesto dai capi reparto come voteranno. Sul fronte organizzativo della consultazione tra i dipendenti vengono confermati intanto tempi e modalità. Il voto si terrà a partire dal turno di notte di domani, quindi verso le 22, e proseguirà con il turno del mattino di venerdì e quello successivo del pomeriggio. A seguire ci sarà il conteggio dei voti. Vincenzo Miglietta, Radio 24, il sole 24 ore. E così sull'accordo Roberto Di Maulo, segretario generale della FISMI, ci è intervenuto questa mattina a 9 in punto, intervistato da Oscar Giannino. Stiamo facendo un confronto franco e sereno con tutti i lavoratori per cercare di spiegare i reali contenuti dell'accordo e per cercare di togliere le bugie un po' eccessive che la FIOM ha messo, di anticostituzionalità, che vengono toccati i diritti indisponibili. In realtà, come al solito, questo non è vero. Se fosse vero, mi chiedo perché la FIOM non ha presentato finora, e l'accordo di Pomigliano, che è uguale a quello di Mirafiori, è datato 15 giugno 2010, al Tribunale di Nola non mi risulta ci sia deposta nessuna richiesta di incostituzionalità o di messa in discussione dell'accordo di Pomigliano. Quindi è la migliore dimostrazione che le chiacchiere che fa Landini sono assolutamente chiacchiere, sono cose assolutamente non vere, altrimenti farebbero già ricorsi alla magistratura. Ma c'è un altro fronte che riguarda Fiat ed è quello americano. Andrea Malani, inviato del Sole 24 Ore a Detroit, dove si sta svolgendo il Salone Internazionale dell'Auto, ha intervistato il capo della task force del presidente Obama proprio per il settore. Sentiamo. Ron Bloom, super consulente di Obama per il settore auto, commenta con favore la prospettiva di un ritorno in borsa di Chrysler già nel 2011 e dice di essere pronto a discuterne con Sergio Marchionne. Sentiamolo. Lo zar dell'auto è stato prodigo di elogi al management della Chrysler guidato da Marchionne. Fra le tre aziende di Detroit, ha detto, è quella che ha avuto la strada più difficile, ma ha già segnato tre trimestri consecutivi di utile operativo ed è riuscita ad aumentare la quota di mercato. La prospettiva di una Chrysler più italiana non spaventa Bloom. Il business dell'auto, dice, è ormai globale. Fiat potrà prendere il controllo della Chrysler solo dopo averci restituito tutti i prestiti. Se si arriverà a quel punto sarà una giornata positiva. Vorrà dire che l'azienda funziona, i posti di lavoro sono stati salvati e i debiti ripagati. L'importante per me è che ci sia gente disposta a produrre auto sul suolo americano. Senza Marchionne la Chrysler crollerebbe? Dopo la battuta, l'importante è che Sergio ci lasci il maglioncino, Bloom sottolinea che il suo ruolo è fondamentale per Chrysler, come quello di Alan Mulally per la Ford. Sarà compito del board preparare il piano di successione. Lui sta facendo un ottimo lavoro, ma a questo mondo nessuno è insostituibile. Andrea Malan, Radio 24, il Sole 24 Ore, Detroit. E mentre è in corso la conferenza stampa di Silvio Berlusconi e Angela Merkel per il vertice bilaterale tra Italia e Germania che si sta svolgendo in questo momento a Berlino, arrivano dati positivi tanto dal nostro paese quanto appunto dalla Germania. Sentiamo. Dopo due mesi negativi la produzione industriale ha rialzato la testa a novembre. Dai dati Istat emerge un aumento dell'1,1% rispetto a ottobre e del 4,1% rispetto al novembre del 2009. In 11 mesi, lo scorso anno, la produzione industriale ha registrato un aumento del 5,4%, ma siamo lontani dai livelli pre-crisi, come spiega l'economista Fabrizio Onida. Godiamo di un effetto di trascinamento, diciamo un 5% anno su anno, che però, va subito ricordato, è un recupero, ma se non sbaglio di circa un terzo, non molto di più, della gravissima caduta che era stata registrata dal 2007 al 2008. E se oggi uno dovesse dire a che punto siamo in recupero, ancora lontano dall'avere guadagnato e riguadagnato i livelli pre-crisi, i beni di consumo durevoli sono ancora apparentemente in crisi e invece sui beni strumentali e i beni intermedi abbiamo una ripresa interessante che segnala la possibilità di collocarci sulle fasce avanzate della produzione industriale. Giovanni Bracco da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È una Germania in piena ripresa quella che ha chiuso il 2010. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica l'economia è cresciuta del 3,6% dopo un crollo del 4,7% nel 2009 sulla scia del drammatico fallimento di Lehman Brothers che aveva bloccato il commercio internazionale. Il successo tedesco è da imputare alla migliorata competitività del prodotto industriale della Germania. Il paese sta contribuendo in grande stile alla modernizzazione dei mercati emergenti. Oltre all'export, ad aiutare l'economia tedesca è stata anche la domanda interna, in particolare gli investimenti, ma anche in parte i consumi. In questo senso, in novembre le importazioni hanno toccato un massimo storico. Veda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Berlino. E tra l'altro dice il ministro tedesco Bruderl che si sta andando, che la Germania, che il paese sta andando verso la piena occupazione. Ma come è stato possibile che la Germania crescesse in questo modo? Ebbene, nei 5 anni che hanno preceduto la crisi la produttività tedesca è cresciuta del 17%. Questo in forza anche di accordi fatti tra le aziende e i sindacati che hanno permesso un aumento dell'orario di lavoro senza l'aumento dei salari. Questa mattina il Oscar Giannino ha intervistato a 9 in punto Roberto Garippo, che è un sindacalista della IG Metall, che è il sindacato dei metalmeccanici tedeschi, e che lavora e fa la sua attività sindacale a Wolfsburg, dove c'è la sede della Volkswagen, e così ha raccontato come si svolgono le relazioni sindacali in Germania. Allora, io sono 35 anni che lavoro nella fabbrica dove c'è la direzione della Volkswagen qui a Wolfsburg, di cui sono 27 anni nel consiglio di fabbrica e 35 anni nella commissione tariffale. Non abbiamo mai indetto uno sciopero legale. Uno sciopero generale non è possibile indirlo senza un referendum. Allora, in prima linea la commissione tariffale inoltre una richiesta, per esempio come adesso il 6% a partire dal 1° di febbraio. Se nelle trattative a tavolino non si riesce ad arrivare a una conclusione, organizziamo delle forme di informazione nell'ambito dell'azienda, dove si ferma naturalmente tutta l'azienda. Se le trattative arrivano a un punto che a tavolino non si arriva a una conclusione, la commissione tariffale, che è composta da circa 100 rappresentanti degli operai, decide: ora a tavolino non riusciamo più a concludere niente, dobbiamo indire uno sciopero. Il sindacato deve fare un referendum, inoltrare un referendum dai tutti i suoi iscritti. Qui alla Volkswagen siamo il 96%. E ottenere quanta percentuale di voti? Il 75%. Se non si ottiene il 75%, non si può indire uno sciopero organizzato, dove il sindacato naturalmente deve pagare anche non il 100%, però deve pagare anche il mancato guadagno, perché sennò a fine mese. E questa appunto era l'intervista al sindacalista della IG Metall. Noi passiamo a parlare della politica, mentre sta parlando anche di politica italiana Silvio Berlusconi da Berlino, dove si trova per il bilaterale della Germania. La giornata si gioca anche tra l'intervista a Gianfranco Fini e l'attesa per le decisioni della consulta sul legittimo impedimento. Da Montecitorio, Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Ecco, subito le parole del Premier: non credo che in Italia ci sia la possibilità di una grande coalizione, purtroppo non possiamo contare su un'opposizione democratica, è divisa senza idee, senza progetti e senza leader. Possiamo vedere in questa prima frase del Premier Silvio Berlusconi la risposta a Gianfranco Fini. Sì, ricordiamo che ci sono già quindi le reazioni al patto per salvare l'Italia lanciato da Gianfranco Fini a maggioranza opposizione, e ricordiamo anche il capogruppo del PDL alla Camera Fabrizio Cicchitto che dice Fini ha preso atto che il 14 dicembre è andato incontro ad una sconfitta politica. Ma se rimane un margine di 3 voti, dice Cicchitto, e c'è una guerra di logoramento, il rischio di elezioni aumenta. O va avanti Berlusconi o si va ad elezioni, quindi per il PDL. Per il Partito Democratico invece l'analisi economica di Fini è giusta, ma quello che è sbagliato è il coinvolgimento di Berlusconi, considerato per i democratici l'autore del disastro. Una buona intervista la considera l'ormai alleato Pier Ferdinando Casini, e ricordiamo quello che ha lanciato Gianfranco Fini in un'intervista a Repubblica questa mattina, è quello che si definisce un patto per salvare l'Italia. Il nostro paese è sul punto di asfissia e ha bisogno di convergenze, dice il Presidente della Camera, le elezioni ora sarebbero una prospettiva rischiosissima. L'importante, spiega Fini, è tirare fuori dalle secche un paese fermo e sfiduciato. Intanto veniamo alla Consulta, che ha appena concluso stamattina l'udienza sui quesiti referendari su acqua nucleare e legittimo impedimento. La decisione su tutti e 6 referendum, incluso quello su legittimo impedimento, è attesa in giornata. Per la valutazione invece sulla costituzionalità della legge, la Corte Costituzionale si riunirà di nuovo domani. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito, noi cambiamo decisamente argomento. Prima il gladiatore, poi il crocifisso. Torna a far discutere l'imprenditore bolognese Carlo Chionna per la nuova pubblicità tutela del Made in Italy. Sui cartelloni compare personalmente in croce, coperto da uno straccio legato in vita con la scritta "Padre, perdona loro perché non sanno quello che indossano" e la didascalia "Dio salvi il Made in Italy". A Milano i manifesti sono stati coperti da scritte in vernice rossa, pubblicità blasfema, vergogna, c'era scritto appunto con la vernice. Carlo Chionna, intervistato da Narita D'Ambrosio, risponde così: purtroppo la cosa è stata interpretata molto male, perché hanno confuso quello che può essere un discorso religioso con quello che può essere invece interpretato, come è stato interpretato da me, nella difesa e nella tutela delle famiglie che sono senza lavoro. Cioè la croce in realtà rappresenta la sofferenza, se poi dopo la gente lo interpreta in altro modo, oggi glielo sto spiegando, forse non lo sapeva, quindi questo è quello che posso dire a loro. È logico che si sentono offesi, hanno sbagliato, loro, non ho sbagliato io. Io come ho messo la mia faccia in tutte le pubblicità precedenti, perché persino dal vecchio marchio che avevo ci mettevo la mia faccia, ripeto, per risparmiare, perché io rispondo delle mie gesta, no? Quindi vado sempre io in prima persona. Sul sito ci sono altri cartelloni che sono sempre a sfondo religioso, o no? Ma io le potrei definire, intanto una è una cena con amici, per esempio, e l'altra è un'operazione dove c'è una bandiera praticamente, che si dice all'Italia di alzarsi e camminare da sola. Quello che a me interessa più dire è che se questa cosa ha suscitato scalpore, ha fatto un po' di rumore, a questo punto si chiedono il perché siamo arrivati a tanto. Non solo Chionna, in realtà è vero anche perché a Firenze, dove in corso Pitti Uomo campeggia anche un Cristo crocifisso con abiti alla moda di Alessandro Cantarelli, amministratore delegato presidente dell'omonima azienda aretina, che ha trasformato il suo stand in una chiesa. Chiudiamo questa prima parte parlando di spettacoli. Venerdì su Canale 5 ricomincia Zelig, con l'esordio alla conduzione di Paola Cortellesi, che affiancherà Claudio Bisio. Sentiamo i due conduttori intervistati da Marta Cagnola. Zelig diventa un po' più varietà e anche un pochino più satira politica, perché lei fa dei personaggi storicamente, poi probabilmente qui ne farà anche di nuovi, inediti totalmente, quindi non ve li diciamo perché forse non li sappiamo neanche noi ancora. No, forse neanche noi. e però inizierà con i suoi cavalli di battaglia, che saranno Letizia Morati, la Santanchè, eccetera. Quindi venia di canzone culo, che abbiamo appena cantato, siamo qui a cantarvela. Sale l'inquietudine, la notte ti bracca. Perché lui sta facendo la memoria. È musica momento. Che cresce, Megalopori che spacca, e questa è Cuneo. No, era New York. No. Splendida città del Piemonte. No, era New York. Col sole di fronte. Vieni qui a Cuneo. New York, New York. Cuneo. C'è l'atmosfera sabauda. No, questa c'è la bagna cauda. Sì, la bagna cauda. Si ma parliamo di Cuneo. New York, Cuneo. New York, New York. Un intervento di Letizia Moratti. Del sindaco Moratti. Ma è un politico che sicuramente non conosce la realtà. Conosce la realtà. Non è quanto che costa... uno di quei politici che non sanno quanto costa un chilo di perle, ecco, o un litro di pane. Le 13:17 minuti e 32 secondi, nella prima parte del giornale radio vi abbiamo dato conto di un'ampia pagina economica a partire dalle vicende di Fiat con l'azienda che ha organizzato delle assemblee con i lavoratori a Mirafiori per spiegare l'accordo e la FIOM che protesta. Abbiamo parlato della produzione industriale italiana, il dato è positivo, così come è positivo il dato sul prodotto interno lordo tedesco, e abbiamo toccato i temi della politica. Adesso andiamo all'estero e ci spostiamo in Tunisia. Da ieri la situazione è tesa anche nella capitale, dove oggi è stato schierato l'esercito. Ci colleghiamo con l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Alberto, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a tutti voi. Com'è la situazione a Tunisi? Allora, la situazione a Tunisi stamattina si presenta in questo modo. Nel quartiere occidentale della città, dove ieri c'erano stati degli scontri piuttosto violenti, ci sono dei blindati schierati della Guardia Nazionale e ci sono anche i segni di quello che sono stati appunto le dimostrazioni piuttosto forti di ieri pomeriggio, camion incendiati, dei pullman che sono stati assaltati, qualche negozio e una banca. E alcuni blindati sono stati anche collocati in posti strategici di accesso alla città, ma soprattutto il grande afflusso di agenti in borghese che colpisce praticamente il cuore della città, l'avenue Bourguiba, dedicata all'ex presidente che fondò la Repubblica Tunisina, oggi pullula di personaggi in giubbetto nero che sono evidentemente degli agenti in borghese. Ma forse la novità politica più importante sono le dimissioni del ministro degli interni. È stato sostituito e intanto Ben Ali ha ordinato il rilascio degli arrestati, promettendo una commissione d'indagine sulla corruzione e sui comportamenti dei funzionari pubblici. Dal punto di vista politico, Alberto, che significato ha questa sostituzione del ministro? Beh, questo è sicuramente il tentativo in qualche modo di calmare la piazza inferocita con la repressione dura che c'è stata in questi giorni. Le vittime sono diventate veramente tante, almeno una sessantina, anche perché sono stati confermati anche 4 morti di ieri. Intanto però queste misure non fermano le proteste, soprattutto nella parte meridionale del paese. Oggi a Sfax pare che abbiano dimostrato decine di migliaia di persone, ci sono stati scontri e si parla di un morto per uno sciopero generale indetto dai sindacati. A Tunisi ci sarà uno sciopero per sabato, quindi attendiamo insomma che la situazione evolva in qualche modo. Grazie dunque ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore a Tunisi. È stata attaccata a colpi di arma da fuoco una base italiana nell'ovest dell'Afghanistan. I militari hanno risposto e gli insorti si sono allontanati. Non c'è nessun ferito. È la stessa base nella quale il 31 gennaio è stato ucciso l'alpino Matteo Miotto. L'installazione militare si trova a Buji, nel Gulistan, nella parte sudorientale del settore ovest del paese, tutto sotto comando italiano. Decine di vittime dispersi nel Queensland australiano flagellato dal maltempo, colpito da devastanti inondazioni. Evacuata parte della città di Brisbane. La piena del fiume Brisbane è attesa in queste ore. La città è da tempo in allerta e tutto sembra previsto, ma la portata dell'acqua è tale che qualcosa potrebbe sempre andare storta. Il centro e tutte le aree periferiche al di sotto del livello del fiume sono state evacuate. La distribuzione di elettricità sospesa. I centri di accoglienza e soccorso funzionano a pieno regime. Non resta che aspettare che l'acqua arrivi e passi. Nei palazzi della City, scantinati e garage sono già allagati. Nel Queensland, un'area vasta come Francia e Germania, vivono meno di 5 milioni di persone. Il 10% di loro è italiana di prima, seconda o terza generazione. Difficile mettersi in contatto con tutti, dice il viceconsole a Brisbane, Antonio Colicchia. Quelli che siamo riusciti a contattare ci hanno assicurato che non corrono rischi perché vivono in zone sopraelevate. Altri non sono stati reperibili perché le linee telefoniche sono saltate. Però sa, i connazionali si conoscono in zona e quindi ci hanno assicurato che chi corre da qualche rischio si è allontanato da amici. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E ad un anno dal terremoto di Haiti c'è spazio anche per storie di speranza e ricostruzione. Claudio Gatti, inviato del Sole 24 Ore a Port-au-Prince, ci racconta la storia di un imprenditore che non si è arreso. Sono in questo momento nell'ufficio di Jean-Ronel Noël, 36enne ingegnere meccanico di Port-au-Prince, che dopo aver studiato in Canada e aver essersi laureato in ingegneria meccanica ha deciso di tornare nel proprio paese natale, Haiti, e costruire in un settore assolutamente innovativo, quello dei pannelli fotovoltaici, delle luci fotovoltaiche, in un paese che non ha elettricità, non ha un sistema elettrico nazionale, ma che ha tantissimo sole. Ha cominciato nel 2005 e nel 2009 era riuscito a raggiungere una produttività, un margine operativo del 20%. Il gennaio 2010 il terremoto ha colpito Port-au-Prince danneggiando gravemente la sua fabbrica, ma adesso ha già ripreso le proprie attività e anzi ha creato addirittura nuovi prodotti per le nuove organizzazioni non governative e ritiene di avere un futuro. Sentiamolo. Dopo il terremoto la fabbrica è stata danneggiata insieme ad alcuni prodotti già pronti e alle mura di cinta, ma usando gli stessi operai della fabbrica abbiamo ricostruito la struttura e in due mesi siamo tornati a essere produttivi, trovando un nuovo mercato che è quello delle organizzazioni non governative che stanno aiutando il paese. In particolare forniamo lampade solari per i campi profughi che non hanno alcuna luce per garantire la sicurezza, soprattutto delle donne. Il 2010 è stato un anno molto difficile, ma siamo comunque riusciti a chiuderlo con un margine operativo di circa il 5-6%. Il 2011 già promette di essere più produttivo e pensiamo a un futuro mercato sia nelle pubbliche amministrazioni haitiane per la ricostruzione dei sistemi di illuminazione pubblica, sia ancora per il mercato delle ONG. Il nostro piano è di sviluppare una nuova lampada solare e altri prodotti più economici per le comunità che non hanno accesso alla luce. Stiamo cercando investitori stranieri che vogliano entrare nella società per renderla più forte e comprare nuove linee di macchinari per aumentare la produttività. E chiudiamo la pagina estera con una notizia appena battuta dalle agenzie. Torna a salire il consenso per il presidente americano Barack Obama per la prima volta da giugno. Secondo i suoi concittadini interpellati in un sondaggio Reuters, Ipsos sta facendo un buon lavoro appunto per il 50% dei suoi concittadini. Veniamo ai 700 indagati nella lista dei presunti evasori trafugata da Hervé Falciani. La prima fu quella del Liechtenstein, questa è stata invece la più lunga, ma non l'ultima. Spuntano i primi 700 nomi della lista Falciani, l'elenco degli italiani con conti alla HSBC, stilisti, showgirl, attrici, imprenditori. Le loro posizioni sono diverse, ma tutti avevano conti nel colosso elvetico e per questo sono indagati a Roma per omessa o incompleta dichiarazione dei redditi. Dagli stilisti Valentino e Balestra all'attrice Stefania Sandrelli, dal gioielliere Bulgari alla showgirl Elisabetta Gregoraci, dai cognomi nobiliari a tante persone non famose. Nel calderone dei nomi non pochi comunque hanno già scudato i propri tesori. In totale erano 6.963 gli italiani inseriti nel CD con i dati sottratti dall'informatico Hervé Falciani e per l'Italia presi ufficialmente in consegna dalla Guardia di Finanza e poi smistati tra le varie procure. Questi sono solo i nomi di Roma. A Milano c'è invece anche un'altra lista che è come un pozzo, scherzano gli inquirenti, quella del fiduciario Guastalla arrestato nell'indagine Italis. Ha portato già al processo sui promotori Mediolanum, agli accertamenti fiscali su marchi di moda e società di calcio ed è il punto di partenza dell'inchiesta che interseca quella della cricca romana attraverso il marito della cucinotta Giulio Violati. Verifiche sono in corso su triangolazioni finanziarie e appalti, a cominciare da uno per i servizi informatici alle Poste. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Siamo in chiusura e andiamo allo sport con i motori. È stata presentata la nuova Ducati. Eccola qua, presentata come una diva, la nuova Desmo 16 GP11, nata dal team di Borgo Panigale, il rosso Ducati con il giallo del numero 46 di Valentino Rossi, un simbolo del Made in Italy che con Valentino diventa un supermarchio d'eccellenza nazionale. Moto italiana con pilota italiano. Era dai tempi di Giacomo Agostini con la MV Agusta che non veniva raccolta questa sfida. con tutti i rischi del caso, perché noi italiani, come sapeva bene Enzo Ferrari, siamo bravissimi ad esaltarci, ma anche rapidissimi a buttarci giù al primo ostacolo. Uno di questi potrebbe venire proprio da Valentino Rossi, per la prima volta meno spavaldo, quasi sentisse improvvisamente la ruggine degli anni. Purtroppo speravo di essere un po' più in forma, ancora il braccio non lo alzo, arrivo fino a qua, dritto, mi fa male, ecco, quindi mi manca un po' tutta questa parte di movimento e la spalla ancora mi fa abbastanza male. Lui, il boss della vita spericolata, chiede pazienza. A tanta gente piacerebbe vedermi subito veloce con la Ducati dal primo test, dalla prima gara. Invece purtroppo ci vorrà un po' più tempo, quindi speriamo che i tifosi abbiano un pochino di pazienza. Pazienza, profilo basso, un Valentino inedito, insomma, come suggerisce anche Claudio Domenicali, direttore generale di Ducati, che da Madonna di Campiglio esalta il nuovo ruolo del pesarese nel team. Non solo pilota, ma anche consulente d'eccezione per la produzione di moto di serie. Un Valentino ancora più da marketing, insomma, sperando che in questa evoluzione non perda proprio adesso il suo marchio di fabbrica, quella sfacciataggine che gli fa tirare il freno sempre un secondo dopo il suo avversario. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il prossimo 28 gennaio a Maranello verrà presentata la nuova Ferrari, che dovrà portare Alonso e Massa a quel titolo mondiale sfuggito nel 2010. Il direttore della gestione sportiva, Stefano Domenicali, annuncia però cambiamenti a bordo pista. Per quanto riguarda l'organizzazione, come abbiamo annunciato nei giorni scorsi, abbiamo rivisto un attimo le responsabilità per quanto riguarda la pista, quindi il vice direttore tecnico Pat Fry assume la responsabilità anche della pista, quindi le decisioni strategiche che dovremmo prendere durante il corso della gara, e abbiamo creato un gruppo nella direzione tecnica di Aldo Costa, sempre, che si occuperà di migliorare gli strumenti di analisi strategica e di simulazione da mettere a disposizione degli ingegneri per poter prendere le decisioni giuste. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchessi, con in regia Paolo Corleoni. Il prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.